Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Il piacere non può aspettare. Questo è il titolo del romanzo dell'indiana Tishani Doshi, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Gioia Guerzoni. È la storia d'amore fra un ragazzo indiano e una giovane inglese nella Londra del 1968. Dunque è la storia di un amore misto, con tutto quello che ne consegue, incontro-scontro fra due mondi diversi. Ma sentiamo come ne parla Tishani Doshi. I think I was interested in retelling a family history. My own family history, so the basic main characters are loosely based on my parents. Avevo intenzione di raccontare una storia familiare, la storia della mia famiglia. I due personaggi principali sono ispirati ai miei genitori, ma scrivere il libro è significato anche cercare di capire qualcosa sulla mia famiglia estesa, e visto che non avevo mai sentito la storia, ho deciso di darne una mia versione. Because I never heard the stories, I decided to sort of make my own version up. Chi sono i due personaggi principali, Babo e Shian? You know, I discovered these letters of my parents when I was a teenager. Quando ero ragazza, ho scoperto delle lettere dei miei genitori. Ricordo che ho preso un album di foto e guardando i miei genitori giovani, belli, avevo la sensazione di vedere persone che non conoscevo. E così è nata l'idea del libro: provare a catturare il meraviglioso idealismo del loro amore. Quello che si può avere solo quando si è molto giovani. Ho costruito la storia volendo rendere l'idea di due persone che venivano da due background diversi e che erano innamoratissime. La storia va indietro nel passato e poi avanti nel futuro, ma ha sempre al centro queste due persone. Taking the story from there back into the past and into the future, but keeping those two people very much at the center. Per me, Babo e Shian sono un modo per idealizzare l'amore. Madre inglese e padre indiano, si tratta dunque di una storia d'amore interculturale. Quali le difficoltà e quali invece i vantaggi di questa storia? I think that basically, you know, having influences of two cultures can be very beneficial for the offspring. Penso che avere l'influenza di due culture possa dare benefici ai figli. Noi ora viviamo in un mondo diverso, ma all'epoca in cui si svolgeva la storia, alla fine degli anni 60, un amore interculturale richiedeva un grande sforzo, un grande impegno. Una storia del genere era la dimostrazione dell'amore che ci stava dietro, ma nello stesso tempo dava libertà, libertà di fare le proprie scelte. To everyone involved to make their own choices about. Nel romanzo si dà molta importanza al cibo. Perché? Ah, food. Well, I think Indians and Italians are quite similar in this respect. Oh, il cibo. Credo che indiani e italiani siano molto simili su questo tema. Per noi il cibo è piacere, un piacere nella vita di tutti i giorni. E il motivo per cui io parlo e scrivo di questo è che io stessa sono una grande appassionata di cibo. In India è molto simile all'Italia l'importanza che il cibo ha nella vita di tutti i giorni. It's very similar to Italy in the importance of which food plays in our daily lives. E questa era Tishani Doshi, autrice di Il piacere non può aspettare. Veniamo ora al romanzo di una giornalista italiana che vive da anni negli Stati Uniti, Elena Molinari Snell. Il libro si intitola Ragionevole dubbio ed è pubblicato da San Paolo Edizioni. Anche in questo caso si tratta di una storia vera, la storia vera della giornalista che è appena diventata cittadina americana, viene chiamata a presiedere una giuria popolare che deve decidere su un caso di omicidio. La vittima è un ragazzo nero che viveva nei sobborghi di New York. Essere sospettato del delitto è un membro della gang dei Blood. Il romanzo diventa così un viaggio all'interno del sistema giudiziario americano. Ma come è nata l'idea di questo romanzo? Sentiamo l'autrice. Da un'esperienza personale e casuale, pura sorte, che mi ha catapultata all'interno di questo giallo. Dopo essere diventata cittadina americana sono stata convocata a far parte di una giuria. E già essere stata selezionata è stato puramente imprevedibile, perché eravamo in tantissimi e solo pochi appunto sono entrate a far parte di questa giuria, e poi si è anche rivelato un caso di omicidio, mentre la maggior parte dei casi capita di far parte di giurie che devono redimere delle liti di condominio. E questo omicidio era particolarmente sanguinoso e particolarmente efferato. Si trattava di un omicidio e di due tentati omicidi, e ben presto è stato chiaro che erano coinvolte due delle gang più violente di New York. Quindi, pur non sapendo all'inizio come sarebbe andata a finire, mi sono trovata per un mese a dover decidere del destino di un uomo e anche a dover temere per la mia incolumità. Una giuria popolare come fa a decidere su un caso appunto di omicidio quando magari non si hanno degli strumenti giuridici? Tu come ti sei trovata? La prima difficoltà, secondo me, è stata quella di superare la paralisi che viene dal senso di responsabilità. Non avendo appunto un giudice o un avvocato in aula che ti possa indicare la strada, che ti possa dire stiamo procedendo bene, stiamo procedendo male, c'è questo terrore di prendere una decisione sbagliata. E come una giuria arrivi al verdetto rimane per me tuttavia un mistero, perché si tratta di prevedere, che è impossibile, le dinamiche che si instaureranno fra 12 persone che non si sono mai viste in precedenza, che non si conoscono, che arrivano per forza di cose in camera di consiglio con esperienze, vissuti, pregiudizi diversi. La speranza e diciamo la fede del sistema giudiziario americano è quello che il buon senso e la capacità di ragionare sui fatti prevalga, e dove non prevale in una persona venga stemperata magari dal giudizio di un'altra, però che alla fine in questo modo si arrivi alla verità. A volte si vede nei telefilm americani, nei film americani, che chi fa parte di una giuria, non so, legge il giornale, si mette a lavorare a maglia. Che tipo di serietà c'è da parte dei giurati? Fasi alterne, si parte con l'entusiasmo, e questo lo spiego bene, nel senso lo spiego in modo dettagliato nel libro perché ha colpito molto anche me. Siamo partiti con un estremo entusiasmo, una voglia di proprio sviscerare i fatti, poi subentra la stanchezza, poi cominciano i primi scontri, cominciano le prime dinamiche, le prime tensioni, e poi allora si cerca di uscire da quelle. Dopo 2 settimane è veramente, siamo tutti scivolati un po' nel farsesco, nel senso che abbiamo tentato, per rimotivarci, di mettere in scena il delitto vero e proprio, quindi con risultati ridicoli. E io stessa, che ero partita con una mentalità da purista in cui non si può leggere il giornale, non si può accendere il cellulare in camera di consiglio, poi essendo la presidente proprio costringevo anche gli altri a questa disciplina, dopo 2 settimane mi sono trovata a portare il portatile perché almeno evadevo per 2 minuti leggendo le email, altrimenti sarei impazzita. Dopo questa esperienza, che idea ti sei fatta delle giurie popolari? Cioè, che credibilità, che professionalità hanno? Alla fine io davvero ci credo, pur avendo visto i limiti di questa giuria e anche i limiti della mia esperienza con loro. Siamo arrivati a un risultato che non anticipo, che è stato frutto di un compromesso. Non è esattamente quello che io avrei voluto vedere uscire dalla giuria. Però è un compromesso con cui tutti potevano poi andare a letto la sera e dormire serenamente. E alla fine, anche a distanza di mesi, penso che abbiamo fatto la cosa giusta. Quindi è vero, è imprevedibile e fa anche un po' paura mettere la vita di un uomo, di una donna, di una persona nelle mani di 12 persone che nel maggior parte dei casi non hanno nessuna esperienza legale. Però si instaura forse quello che il nostro giudice bravissimo diceva, prevale il buon senso non di una persona, il buon senso popolare. E effettivamente così è stato, e non so, forse è stato pensato in questo modo, forse 12 è un numero magico in cui si creano delle dinamiche, però io ci credo. Avete ricevuto minacce durante il periodo in cui avete fatto la giuria? Sì, io personalmente ne ho ricevuta una che mi ha terrorizzata, e non sono stata l'unica, almeno 3 di noi hanno ricevuto minacce, e abbiamo rischiato a quel punto di far annullare il processo perché uno di noi non aveva intenzione di continuare, è rimasto troppo spaventato. Il giudice però ha deciso di andare avanti, ha detto che avrebbe attivato dei meccanismi per proteggerci. Noi non abbiamo visto nulla, a fine processo ci siamo accorti che in effetti erano state fatte delle cose che ci hanno protetti. Devo dire però che la paura non mi ha mai paralizzato, e non lo dico con eroismo, perché io ho 2 bambini piccoli. La paura mi tornava quando arrivavo a casa e quando mi chiedevo se qualcuno mi avesse pedinato. Però lì in tribunale, anzi, l'aver ricevuto minacce ci ha resi tutti, tranne appunto uno, ancora più determinati a non darla vinta a chi voleva che per qualsiasi motivo questo processo naufragasse. E